Mara, figlia di Adriana, brillante alunna della nostra scuola, diplomata e a sua volta custode di un cerchio della Scuola delle Donne, ha dedicato la sua tesina dell'anno accademico 2023-2024 alle grandi poete di lingua inglese dell'Ottocento. Abbiamo deciso che, oltre alla pubblicazione della registrazione live della sua classe, valeva la pena fare la lettura della tesina dividendola in quattro parti, quante sono le poete stesse, così da poter ascoltare il lavoro nella sua integrità e non solo la sua presentazione riassuntiva. Dunque, in questa playlist ascolterete dalla voce stessa di Mara la lettura della vita e dell'opera delle quattro antenate che usarono la poesia come via alla libertà, e io ora vi leggerò la presentazione della tesina di Mara, scritta da lei, nella quale racconta come mai sono state trattate insieme, come i punti di una ancestrale ruota di medicina. Ascoltate dunque di seguito che cosa scrive Mara. Ellen Morse, nel suo libro Literary Women, sostiene che leggere insieme le poesie d'amore di Elizabeth Barrett Browning, Emily Bronte, Christina Rossetti e Emily Dickinson è come stappare una bottiglia di un vino raro. Queste quattro donne e poete non hanno solo rivoluzionato il mondo della poesia, ma con carta e penna hanno ribaltato gli schemi del mondo sociale e culturale dell'epoca. Le loro vite si specchiano l'una nell'altra, come quattro sorelle indissolubilmente unite da un enorme talento e da uno straordinario genio nel descrivere con le parole il mondo in cui vivevano e nel creare ad ogni verso il mondo in cui volevano vivere. Vissute nel XIX secolo, furono contemporanee e, sebbene non si siano mai incontrate, ognuna lesse la storia e l'opera delle altre, riconoscendosi, ispirandosi e lasciandone traccia nei propri componimenti. Anche gli eventi della loro vita furono molto simili e tutte e quattro soffrivano di attacchi di rabbia improvvisi e furono tormentate dalla malattia fisica che nasceva da un bisogno di libertà spirituale tanto represso nella società vittoriana ottocentesca e ancora incompreso ai giorni nostri. La ricerca dell'isolamento e della solitudine fu l'unico mezzo a loro disposizione per crearsi uno spazio intimo dove esplorare la propria anima. Se questa scelta viene spesso vista come un sacrificio e una privazione, in realtà è da leggere come una via di fuga dal mondo opprimente e misogino e come la ricerca della libertà del proprio pensiero, anche se dentro a una gabbia. Come scrisse George Sand in Storia della mia vita, ogni scelta ci mette in una gabbia e ad ognuna di noi sta a scegliere quella che ci rende più felici. Loro scelsero le mura domestiche per dare libero sfogo all'immenso dono creativo di catturare in versi l'anima del mondo. Tranne Elizabeth Barrett Browning, per le altre tre autrici, abbandonare quella gabbia fu fonte di grande dolore e le portò ad ammalarsi ancora di più. Tutte e quattro sfruttarono l'isolamento per studiare, per accrescere la loro cultura e per cercare il rapporto diretto con la natura e con il divino. Il loro apprendimento da autodidatte le portò a scoprire il loro particolare e personale stile letterario, creando un netto distacco dalla tradizione non solo nelle tematiche, ma anche nella forma. Furono molto criticate per questo, ma il clamore portò loro anche il successo. Solo per Emily Dickinson il successo arrivò dopo la sua dipartita dal corpo. Nonostante ciò, lei fu ben consapevole della portata rivoluzionaria del suo lavoro artistico e preparò i suoi componimenti per i posteri. Tutte e quattro erano nate per comporre versi e ne erano consapevoli fin dalla più tenera età. Scrivere era una necessità per librare le ali dell'anima al di fuori della pressante routine domestica. Tutte e quattro ebbero un rapporto molto forte con le sorelle e i fratelli di sangue. Ciò permise loro di intessere relazioni di corrispondenza non solo fra loro, ma anche con le altre poete e scrittrici del tempo, spezzando la catena del conflitto patriarcale tra le donne, come lo descrive Sophie de Lavant. Tutte e quattro amavano la natura e trovarono conforto e protezione negli animali, nel caso di Emily Bronte molto di più che nel mondo degli uomini. I loro amici a quattro zampe furono per loro dei famigli che le guidavano nelle passeggiate e che si accucciavano vicino a loro mentre scrivevano. L'eccentrico fratello di Cristina Rossetti non si accontentò dei classici animali domestici e portò a casa un wombat, un marsupiale australiano. Stiamo parlando di Dante Gabriel Rossetti, il pittore della confraternita dei Preraffaeliti. Quest'ultima si prodigò, Cristina, intendiamo, anche in battaglie politiche contro lo sfruttamento degli animali. Anche se in modo completamente diverso, tutte e quattro sperimentarono nel corpo e nell'anima la forza sublime dell'amore e trovando in esso la salvezza. Elizabeth Barrett Browning, l'unica a sposarsi e a diventare madre, visse l'unione dell'amore fisico e spirituale nella relazione di coppia. Emily Bronte si nutrì dell'amore mistico della natura, lasciandosi sedurre dal vento e dalla brughiera. Cristina Rossetti trovò l'amore nella religione e nella sua arte, faticando a trovare un equilibrio tra le due. Emily Dickinson assaporò l'amore delle parole come mezzo per dipingere la propria anima e descriverla. Tutte e quattro scrissero con un tale trasporto e una tale padronanza della lingua che ho trovato, lei Mara, io sto leggendo le parole di Mara, quindi Mara ha trovato alcune tradizioni in italiano poco efficaci. Con il supporto di testi bilingue, spiega Mara, la traduzione dei loro componimenti è spesso fatta da me, cioè da lei, Mara, soprattutto per Emily Dickinson. Il testo in lingua originale è fondamentale per comprendere il significato originario della poeta e ho fatto, cioè lei, Mara, del mio meglio per renderlo in italiano. Infine, tutte e quattro scandagliarono la loro anima fino nel profondo e approfondirono fin da giovani il rapporto con la morte, arrivando a percepirla come l'estrema guarigione e la liberazione dalle sofferenze della vita terrena. A noi della Scuola delle Donne questo binomio amore-morte ricorda tanto l'anelito delle mistiche religiose per la libertà dell'anima, quella libertà che niente e nessuno ci può togliere. Hildegard di Bingen, Marguerite Porete, Hadwig di Anversa, Mechthild di Magdeburg, Beatrice di Nazareth e Teresa de Avila condividono con le quattro poete la visione dell'amore come forza creatrice e creativa che ci unisce alla fonte divina sia nel dolore che nella gioia. Analizzando tutte queste similitudini possiamo estrapolare un chiaro ritratto della forza e della determinazione di queste donne che usarono le parole come semi che germogliarono con vigore, dando il via a un movimento femminino che sfocerà nelle rivendicazioni femministe del 1900. Proprio nel 1900, Virginia Woolf andò in cerca delle loro tracce poetiche e di quel filo rosso che unisce la sorellanza di tutte le scrittrici e di tutte le donne. Anche la vita di Virginia ebbe diverse parti in comune con loro e trovò ristoro nella connessione al di là dello spazio-tempo, ricevendo doni enormi dalle loro opere. Elizabeth Barrett Browning le diede la forza di esprimere liberamente ciò che sentiva anche quando la corrente era opposta. Emily Bronte le infuse lo spirito ribelle di crescere come artista autodidatta per amore della propria arte. Cristina Rossetti le porse il coraggio di decidere della propria vita anche quando la decisione non poteva essere compresa da nessuno. Infine Emily Dickinson condivise con lei la capacità minuziosa di indagare l'animo umano e di saper guardare il mondo scostando i sette veli dell'illusione come solo una sciamana della penna sa fare. Ecco a voi quindi in questa playlist riunite le quattro poete della libertà trattate singolarmente. Da Devana, buon ascolto!